via. Grandi premi effigi e poi denaro in quantità, riservati a chi li prenderà. Paparazzati da un reporter situato lì per caso a lungomare, immortalato scandalo da prima pagina e ora non ci resta che far circolare. Ora che scappa, l'api che incappa in un agguato che ricorda, porta via. La storia si intreccia nonostante la breccia che inopinatamente s'apre nella via. Sembrerebbe che lei non sappia più che cosa fare, ma tra le risorse ha un cellulare, cambia metodi d'accesso, password, username, cambia il meteo da un Nissan a Rain. Ed ora tutte le volanti sozzate dalla pioggia mista sabbia, mentre il comando non sa più che fare, preso dal timore misto a rabbia. Nobra che aspetta è la in bicicletta, la raggiunge e poi la prende in braccio incerto. Dove scappiamo? Dammi la mano, dritto dritto all'aeroporto. Chiudi bene la valigia e fingi d'essere un mercante azionista col catetere. Io mi metto il tuo turbante e incanterò il serpente, con la coda nel passato e il corpo nel presente. Imbarcati al volo a Z706, l'api senza volto ma con lei, che diceva sta tranquillo, penso a tutto io, credo nelle favole anche in Dio. Nora cantava all'atterraggio ritornelli tropicali di Bob Marley. La piccola il giubbotto in pelle con la fascia sui capelli stile Harley. Nora che incanta, l'api che canta, due briganti in stile Geronimo Stilton. Sono sul mare, fanno l'amore sulla spiaggia la cui capitale è Kingston. Si sono svegliati stamattina per le sei, lei cercava lui e lui voleva lei. Luna e sole, Nora e l'api, musica e poesia, questa notte son scappati via.